Quando avete saputo di Pico Mariani? Voi, che non eravate suoi amici e nemmeno suoi compagni. Voi, che non siete fascisti e nemmeno avvocati con 33 poderi. Voi, eterni innocenti, che lo avete conosciuto sul lavoro o dal barbiere, giusto 4 chiacchiere. E voi, che a malapena ricorderete chi fosse. Ma sì, dai, il fratello minore di quell'altro, com'è che si chiama? Il poeta da Osteria. Voi, cattolici, né di qua né di là, seguaci di Cristo, che sul vostro giornale, L'Era Nuova, avete gongolato per le sonore legnate all'assessore socialista Giovanni Salami e avete insinuato che il suo collega Cocconi si sia dimesso non per le minacce dei fascisti, ma per buon senso, oppure temendo, da milionario, di dover pagare di tasca sua per le malefatte di qualche collega. Voi, cosa avete detto quando vi è arrivata voce che Pico ne aveva prese tante da restare per terra? Chi gliele ha date? Avranno chiesto subito i più ingenui o i finti tonti, che sempre abbondano in tempo di conflitti. Poi la solita sfilza di «Come sta? È in ospedale? Chissà la povera madre con 2 figli così?» Angelo, il maggiore, a quel tempo era ancora vivo, ma pure lui nel mirino dei picchiatori. Qualcosa avrà pur fatto, se l'è andata a cercare, non se ne può più di tutta questa violenza. Già, non se ne può più, ma molti di voi hanno preferito non immischiarsi, limitarsi a borbottare. Anche quelli sinceramente incapaci di commentare con un'alzata di spalle la notizia di un ventenne inerme massacrato di botte. Botte sulla testa e sulle mani, apposta per rendere la vita più difficile a un povero Cristo che con quelle ci lavora. Però anche sti comunisti, sono loro che vogliono fare come in Russia, e in Russia non è stata mica una passeggiata, allora di che si lamentano? Un anno dopo, altra notizia simile. Questa volta, un pestaggio al riparo dagli sguardi, tra 4 mura, come si addice a un partito d'ordine. Anzi, di governo. Il classico lavoro pulito, che ormai anche voi, gente per bene, gente che non si impiccia, conoscete almeno per sentito dire. O magari vi siete imbattuti nelle sue fasi preliminari, accelerando il passo e guardando a sparaguardo. L'approccio in strada, 3 contro 1. L'ordine di seguirli alla casa del fascio, giusto per fare 2 chiacchiere. E l'epilogo, immancabile, con i bastoni o con l'olio di ricino. Di nuovo, avete pensato in tanti, allora di sicuro c'è sotto qualcosa, magari una storia di donne, altro che la politica. Fossi in lui, me ne andrei, avete bofonchiato. Voi, che intendete la storia come un enorme fenomeno naturale, una fatalità che travolge tutto e tutti. Se un'inondazione ti porta via la casa, devi per forza trasferirti altrove. Se i fascisti vogliono rovinarti la vita, meglio farsene un'altra da un'altra parte. Pico alla fine se n'è andato a Parigi. Bravo, avete commentato tra di voi. Lo dicevo io, che era l'unica soluzione. Come se avesse deciso di emigrare per seguire un vostro consiglio, e non perché ha visto crepare suo fratello in un letto d'ospedale dopo la seconda volta che gli sono saltati addosso. Chissà poi come v'è arrivata la notizia, 2-3 anni dopo, nel 26, che pure il secondo dei fratelli Mariani, sai quel Pico? Quello che l'avevano picchiato un paio di volte. È morto in un letto d'ospedale, però a Parigi, non a Correggio. Di cosa era malato? Avete chiesto in giro. Di fascismo, vi ha risposto qualcuno, ma voi, che state sempre dalla parte giusta, dalla parte ragionevole della ragione, non ci avete creduto che il corpo di Pico portava ancora il segno di quelle botte, che la salute gliel'avevano rovinata quei bastoni E poi le fatiche dell'emigrante, il cibo scarso, le cure scadenti riservate ai poveri. Ma va, è passato troppo tempo! Mica potete dire che l'hanno ucciso loro! Vi siete affrettati a precisare. Perché nei vostri tribunali, dove voi sedete come giudici e giuria, gli assassini fascisti potranno sempre contare su un'attenuante o un'amnistia.